English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera siamo in compagnia di un attore bellissimo, anzi magari fossimo in compagnia di questo attore bellissimo, semplicemente ascolteremo una parte della sua autobiografia che lui ha fatto diventare anche un audiolibro, che si intitola Stories I Only Tell My Friends, cioè le storie che racconto solo ai miei amici. Evidentemente siamo tutti suoi amici, perché poi ha deciso di pubblicare questa sua autobiografia, di raccontare queste storie un po' a tutti, autobiografia cartacea e anche in audiolibro. Questo audiolibro noi l'abbiamo preso da un altro audioblog che ci piace molto, che è l'audioblog del Vanity Fair americano, ma confessiamo soprattutto una grande passione per questo attore che un po' ci aveva fatto innamorare tanti anni fa, è rimasto sulla cresta dell'onda. C'è uno strano aneddoto che lui racconta proprio tra queste storie che racconta solo ai suoi amici. Sentiamo l'inizio. Coming back from dinner, we come upon an amazing spectacle. There must be 50 girls around our age congregating around the Excelsior lobby. I remember the body language and the low-level hysteria from being mobbed in Riverside, and I recognize them at once as fans. But of whom? At that moment, Matt Dillon saunters past, and the girls sway en masse like willows in a spring breeze. "Oh, May, what's shaking?" asks Matt in his patented, laconic, cool guy fashion. It's a little hard to hear him as he's carrying a gigantic boombox that's playing some obscure song by T-Rex. Un aneddoto riguarda Rob Lowe, che lo racconta, e un altro famoso attore. Tra l'altro è molto interessante ascoltare gli audiolibri, perché ci si rende conto come comunque l'inglese scritto, anche se sotto forma come questa di un'autobiografia molto scherzosa, è sempre molto più forbito dell'inglese parlato. Per esempio, qui Rob Lowe, il mitico Rob Lowe, il bellissimo Rob Lowe, io me lo ricordo ancora in St. Elmo's Fire, uno dei primissimi film, vabbè, e dice che coming back from dinner, quindi lui e i suoi amici che ritornavano dalla cena, we come upon an amazing spectacle. Ecco, spectacle, che naturalmente noi intuiamo che vuol dire spettacolo, però non è una parola che si userebbe nel linguaggio parlato, però scrivendolo sì, e anche to come upon è già abbastanza complesso, sono tutte piccole differenze, ma sommate veramente vi fanno rendere conto di quanto potenzialmente forbito è l'inglese, che si parla con mille parole ma ha il più ricco vocabolario delle lingue occidentali, oltre 110.000 vocaboli, e questa differenza viene fuori quando confrontiamo come si parla da come si scrive. Che cosa ha visto tornando da cena Rob Lowe? Quindi queste 50 girls, 50 ragazze, congregating in the Excelsior lobby, quindi sono in un albergo, la lobby di questo albergo Excelsior, e loro si stanno congregating, anche qui se fosse stata una cosa parlata avrebbe usato un verbo più semplice, invece inglese scritto. E poi lui dice, naturalmente le giudico dal body language, questo il linguaggio del corpo, e questa low level hysteria, cioè questa eccitazione che lui chiama non proprio gentilmente un'isteria di basso livello, che lui riconosce perché from being mobbed in Riverside to mob, naturalmente mob sappiamo che è la mafia, to be mobbed vuol dire essere infastiditi in modo pesante, era successo evidentemente anche a lui, non nella lobby di un albergo ma in un quartiere di LA. Da qui viene anche il famoso mobbing, tristemente famoso mobbing. Erano delle fan, evidentemente. Ma fan di chi, però? But of whom. E anche qua vedete questa forma whom, che è quasi una forma arcaica, la si usa solo quasi esclusivamente nell'inglese scritto, quindi se fosse stato un colloquio avrebbe detto but of who, non of whom, ma è una biografia scritta che, lo ricordiamo, lui sta leggendo, quindi erano fan, ma di chi? Certo, perché c'era Rob Lowe, ma c'era un altro attore, c'era Matt Dillon. Quindi Matt Dillon saw us and passed, quindi ci vide, to see, sappiamo un verbo tristemente irregolare, to see, saw, seen, e ci passò. E le girl swayed in mass, anche qui sway, un verbo abbastanza complesso che vuol dire poi spostarsi come una marea. Come una marea o come un... Willows in spring. Willows sono i salici piangenti, quindi come i salici piangenti a primavera, quando la fioritura è ancora così leggera che appunto si spostano con ancora maggior leggerezza che in altre stagioni. Immagine molto poetica, non fosse che l'ingresso di Matt Dillon avviene in maniera abbastanza rumorosa. E quindi lui è molto, sì, Matt Dillon arriva e non si può non notarlo, è vestito con la sua iconic cool guy fashion, quindi è questa letteralmente questa moda, quindi questo modo di vestire da cool guy, cioè da uno figo, che probabilmente era all'epoca, non lo so, forse come oggi, jeans stracciati, magliette, un po' un finto trasandato, ma appunto iconic, quindi è chiaro che era poi in realtà molto studiato. E probabilmente non sentiva queste ragazze, la loro low level hysteria, perché he was carrying a boombox. Boombox, letteralmente scatola che fa boom, in realtà sono quegli stereo, tanti di voi forse non se li ricorderanno, io me li ricordo, ma poi spesso si vedono nei video musicali, quelli che si mettono sulla spalla, no? Perché sono delle vere e proprie scatole. Il ghetto blaster lo chiamavano anche, insomma si portava qualche anno fa. Come continua? Beh, lasciamo raccontare a Blue. None of us really know Matt well. We are the LA group, after all, and he is the embodiment of the New York actor. He's already well established as a fledgling matinee idol, and more important, has Tulsa wired from starring in his first movie, Tex, which he shot here 6 months ago. He knows the rub on all levels. We had crossed paths in New York at the auditions, but now we make our introductions in earnest. Matt is funny, wry, and has the sort of jaded charisma that none of us possess. As we talk, the girls twitter and whisper in the background. Ah, man, I'm tired. See you at rehearsals, he says, hoisting his boombox to his shoulders. He crosses to the elevators and passes the gaggle of fans. Then something remarkable happens. Abbiamo fatto anche un po' di suspense, perché then something remarkable happens. Lo sapremo dopo. Cosa succede di remarkable, di così interessante? Capiamo da questa parte del discorso, e non solo per la boombox, che adesso non si porterebbe nessuno perché chiunque avrebbe l'iPad o qualsiasi lettore MP3 nelle orecchie, che ci stiamo riferendo a qualche anno fa. Infatti Rob Lowe e Matt Dillon non si conoscono ancora. Quindi none of us really know Matt well, quindi nessuno conosceva Matt. Tra l'altro, dico per inciso, Matt Dillon per carità bellissimo, però dei due è invecchiato molto meglio Rob Lowe. Concordo, concordo, verissimo. È ancora bellissimo. Perché lui dice, Rob Lowe è originario della California, mentre Matt Dillon è nato sulla East Coast, quindi a New York. We are, after all, the LA group. Noi siamo il gruppo di Los Angeles, che certo in California c'è Hollywood, però a New York c'è anche Martin Scorsese, Robert De Niro, tutta la sua Tribeca. Insomma, è sempre stato un po' il tempio magari degli attori che si credevano o erano un pochino più intellettuali. Facciamo un po' di, appunto, noi siamo LA group, un po' californiani, lui invece è di New York. Effettivamente poi lo descrive proprio come una persona dal particolare fascino, forse perché era diverso da questo LA group. Sì, proprio dice addirittura appunto the embodiment of the New York actor, quindi la personificazione, letteralmente la embody vuol dire naturalmente body da corpo, quindi noi diciamo impersonificazione dell'attore newyorkese, well established, che si era già, to establish naturalmente vuol dire anche fondare, sapete, non so, le vedete nelle etichette, no? Levi's established in, non mi ricordo, 1875, però well established vuol dire che ti sei già fatto le ossa, che sei già affermato. Aveva già lavorato a LA, si erano già incrociati in qualche modo, i loro cammini, i loro paths si erano già incrociati. Cosa succede poi a Matt Dillon? Perché le ragazze ovviamente impazziscono per lui. Sì, qui abbiamo un altro verbo che adesso tutti conosciamo per altri motivi. Quindi Matt Dillon, dice Rob Lowe, had a jaded charisma, espressione poeticissima, quindi un carisma di giada, che in italiano non lo diciamo, però è un'espressione inglese, di nuovo vi faccio notare quanto appunto complesso, forbito è l'inglese scritto. Ve lo vedete Rob Lowe che dice una cosa del genere in un talk show? Ovviamente no, ma non perché sia ignorante, ma perché parlando si usano altri vocaboli. E queste ragazze, they twitter and whisper. Twitter, prima, molto prima che diventasse il servizio di microblogging che conosciamo e amiamo, voleva semplicemente dire cinguettare. Quindi Matt Dillon passa e le ragazze twitter and whisper, cinguettano e sussurrano. E lui è un vero figo, cosa fa? E lui fa la scena di quello che è stanco, man, I'm tired. E allora si porta raising his boombox to his shoulder e quindi prende, dice, man, I'm tired. Naturalmente le ragazze lo stanno sentendo, lui fa finta naturalmente di dirlo soltanto al LA group e poi si rimette il suo stereo sulla spalla e se ne va da gran figo. Crosses to the elevators, va agli ascensori e poi l'abbiamo detto, qualcosa di particolarmente interessante succede. Che cosa? Beh, ascoltiamo la fine del racconto di Rob Lowe. He stops dead in his tracks and whispers to a pretty brunette. She listens for a beat and then turns to the four girls she's standing with and whispers something to them. Matt fiddles with the volume of the boombox. The girls caucus together for a total of about 4 seconds till the brunette leaves her friends behind and joins Matt for a walk to the elevators. He puts his free arm around her. At the last second, just before they enter the elevators, she turns back to look at her friends. Her expression is one I have never seen before. It's like she has a thought balloon over her head and it reads, "Holy shit, how lucky am I?" Matt yawns and the elevator doors close. The entire transaction takes less than 45 seconds. So that's how it is, I think, and take note. Matt fucking Dillon, my hero. L'abbiamo sentita la parolaccia, non la traduciamo, tanto chi ha un po' di familiarità con l'inglese sa che poi non si traduce neanche letteralmente, insomma, questo my hero, il suo eroe. Perché Matt Dillon, peraltro tutto questo succede mentre stavano facendo entrambi le prove per The Outsiders, beh, perché Matt Dillon è il suo eroe? Cosa combina? Dunque, prima di tutto proprio si ferma, no? Perché l'abbiamo lasciato che crosses to the elevators, che si avviava agli ascensori. Guardate qui, elevator in americano, lift in inglese. Poi in realtà ormai si usano, però ci sono queste due parole, vuol dire entrambe vogliono dire ascensore. Io mi ricordo che è americano perché penso sempre alla canzone degli Aerosmith, Love in an Elevator, ecco. Quindi quello è americano. E Matt Dillon si ferma molto teatralmente, he stops dead, che letteralmente si ferma morto, cioè si fissa proprio, si stampa lì di fronte alle ragazzine e dice qualcosa, whispers to a pretty brunette, naturalmente una ragazzina con i capelli castani, e le dice qualcosa, whisper, naturalmente sussurra, quindi probabilmente le sussurra all'orecchio qualcosa. E succede qualcosa poi tra le ragazze. E qui guardate, forse lo ricorderete, nel 2008 quando c'erano ci si avvicinava alle elezioni presidenziali, questi caucus, che erano come dei grandi ritrovi di persone che in generale per il Partito Democratico, quasi sempre per il Partito Democratico, e poi votavano. Ecco, quindi le ragazze appunto si stringono tutte, poi non sono neanche tante, si stringono tutte vicino dopo che Matt ha fatto questo whisper nell'orecchio della brunette. E la brunette lo segue. And she joins Matt for a walk to the elevators. E quindi si affianca a Matt to join, vuol dire, ricordate per esempio, joint venture vuol dire mettersi insieme, quindi si affianca a lui e vanno insieme verso gli elevators. La ragazza è molto soddisfatta e le appare un fumetto sopra la testa. E qui proprio Rob Lowe ci restituisce questa immagine, devo dire, mentre l'ascoltavo mi vedevo la scena, cioè lui dice she turns back to look at her friends, quindi proprio mentre è di fronte agli elevators si gira, guarda le sue amiche e lui dice I will never forget her expression, non la dimenticherò mai quell'espressione, perché she had a thought balloon, sono i palloncini quelli dei fumetti, no, che in inglese si chiamano thought balloon, over her head and reads, perché si dice letteralmente e legge, ma voglio dire in italiano diremmo e nel palloncino lì del fumetto c'era scritto, non il palloncino leggeva, holy shit, che letteralmente vuol dire sacra cacca, che però in italiano non diremmo mai, che vuol dire semplicemente wow, ecco, un'espressione veramente, qui cioè, è proprio un intercalare anche gioioso, direi, perché è talmente assurdo, no? Una cosa come la cacca che diventa sacra fa subito ridere. Matt sbadiglia, sì. tutta la transazione prende meno di 45 secondi e effettivamente Rob Lowe, ragazzo, impara qualcosa da Matt Dillon. Che tra l'altro poi Rob Lowe nella sua vita, nella biografia lo racconta, ne ha fatte credo, noi diciamo, direi più di Bertoldo, sicuramente forse più di Matt Dillon, comunque lì ha imparato, so that's how it is, quindi è così che si fa. I think and take note, e prendo un appunto, e poi appunto dice Matt Dillon my hero, in mezzo ci mette la parolina, che però ricordatelo appunto, non traduciamolo letteralmente, è un intercalare un po' così, un po' molto colorito, però vuol dire semplicemente è davvero il mio eroe da questo momento. La F word, che è sempre una sfida per i traduttori. Lasciamo Rob Lowe e queste Stories I Only Tell My Friends, il suo audiolibro che poi anche la sua autobiografia, perché il nostro English 24 si conclude qui anche per questa sera. Ringrazio Pietro Lacorte in regia, vi ricordo English 24 sempre in edicola, il nostro mensile, ma anche la nostra pagina Facebook, continuate a iscrivervi sulla nostra pagina di English 24. Da Marta Cagnola, Giulia Crivelli, ancora l'augurio di una buona serata.